del postumano, del corpo virtuale, del corpo robotizzato. È un pochino a proseguimento del discorso che facevamo poco fa con Marco Revelli e Giorgio Cremaschi. Andiamo in avanti, loro parlavano della fine del Novecento, della crisi di tutto quello che la sistematizzazione del Novecento comportava rispetto al sindacato, ai partiti, alle classi e così via. Quindi dice, andiamo oltre, anche se non rifiutiamo di pescare nel nostro DNA. Vedremo se anche quando si parla di corpo virtuale è necessario andare indietro nel tempo per ripescare qualcosa nella memoria dell'umanità. Ho però bisogno di fare un appello in questo momento ai nostri ascoltatori. Cerchiamo due cassette video, Europa di Lars von Trier, che è un film di questo regista del nord Europa che in questo momento è in circolazione con un film molto discusso, molto bello, ma anche probabilmente non condivisibile fino in fondo, che è Le onde del destino. Noi cerchiamo Europa, lo vogliamo rivedere. E poi un'altra cassetta che cerchiamo è Medea di Pasolini, perché come sapete è uscito il libro di Christa Wolf, Medea, un lavoro molto molto importante. A questo punto è necessario andare a confrontarsi non soltanto con la Medea di Eschilo, ma anche con la Medea di Pasolini. Quindi se qualcuno possiede Medea di Pasolini ed Europa di Lars von Trier, lo porti qui a Radio Popolare in via Stradella 5, che poi vi restituiamo il tutto. Ho detto Eschilo, no, è un tremendo errore. Euripide evidentemente. Errori tremendi, tremendi errori. 10:44 minuti, 45 minuti in questo momento, è musica techno quella che state ascoltando, in particolare di Laurent Garnier. Ma vediamo subito di entrare in argomento. Lo spunto è il libro di Antonio Caronia, Il corpo virtuale, pubblicato da Muzio, costa 24.000 lire, e a Bruno Pischedda è venuto in mente di interrogare Antonio Caronia perché ha trovato questo libro molto stimolante, vero Bruno Pischedda, ma nello stesso tempo un libro che apre ad alcune cose che vanno un pochino soppesate, perché abbandonare certe categorie del passato, aprirsi al futuro è, come dire, obbligatorio in questi tempi, lo dicevamo poco fa anche con Revelli. Nello stesso tempo però, verso quale futuro, verso quali ipotesi, verso quali prospettive? Perché ti è interessato così tanto Pischedda e il libro di Caronia? Sì, io devo dichiarare anzitutto il punto di vista, insomma la mia posizione qua, che potrei sintetizzare in due battute. Sono non un informato né un esperto, semplicemente un curioso che cerca di documentarsi, che si sta un po' documentando su una produzione, quella cyberpunk o legata alla tematica del virtuale, del corpo cyborg, e dall'altra parte mi sento anche un po' attardato. L'altro giorno incontravo Antonio Caronia e mi diceva: beh, lì, ma tu sei legato ancora al moderno. Ecco, legato ancora al moderno, era un'affermazione interessante. Se il moderno etimologicamente è l'oggi, l'odiernus, essere legato al moderno mi sembrava ancora una buona cosa. E invece ho dovuto percepire, insomma, questo attardamento rispetto a dibattiti e a prospettive che si stanno facendo molto avanti. Ecco, perché sono rimasto colpito da questo libro che mi ha un po' introdotto a questa cultura cyborg. È perché l'impressione che ho è quella che nell'ambito umanistico ci sia un'evanescenza e una piattezza di dibattito veramente sulle tematiche del moderno e del prossimo futuro che ci attende, che già in parte stiamo vivendo, una piattezza esasperante, una piattezza e una confusione, anche una malinconia, una nostalgia passatista, francamente, che mi imbarazza. E invece nella cultura cyborg ho trovato, magari in termini terroristici a volte, però una larga apertura di ragionamento sul futuro che ci attende e, ripeto, in parte stiamo già vivendo. Sì, mi sembra una, come dire, lettura finora, diciamo, dal mio punto di vista condivisibile. Poi io credo che, come dire, quando un libro è interessante, adesso se il mio lo sia o meno non posso dirlo io, ma quando un libro è interessante probabilmente si apre anche a letture diverse, come dire, sopporta una pluralità di interpretazioni che a me non fa certo dispiacere, insomma. Quindi, se tu hai trovato cose di questo tipo, ecco, io sgombrerei un po' il campo da, come dire, da questioni terminologiche, cioè siamo ancora nella modernità, nella postmodernità, l'umano, il postumano, eccetera. Non ti interessa tutto questo? No, non è che non mi interessa, dico però vorrei andare alla sostanza delle cose. Allora, da un lato direi, intanto si potrebbe cominciare a distinguere due piani di discorso diversi. Quello dell'analisi, cioè capire dove siamo arrivati finora, quali processi stiamo, come dire, vivendo e dove questi vanno. Dall'altro quello che sarebbe desiderabile per noi. Allora, prima, diciamo, Revelli nella parte precedente di questo microfono aperto ho sentito diceva una cosa probabilmente un po' banale da un punto di vista cronologico, ma insomma giusta sul piano, se stiamo uscendo, dice l'uscita dal Novecento. Allora, sull'uscita dal, come dire, Novecento mi sembra che siamo tutti quanti d'accordo, sull'uscita dall'industrialismo classico e dalla cultura industriale mi sembra anche. Io nel mio libro ho cercato di fare un passo, diciamo, in avanti. Io non lo so se noi stiamo addirittura già uscendo dal Neolitico, ma suggerirei che ci farebbe bene uscire complessivamente, oltre che dalla società industriale, dal Neolitico, proprio per recuperare, qui entro nel merito delle cose che diceva, che introduceva prima Bruna, proprio per recuperare una parte della storia dell'umanità che è stata finora la più ampia, la più lunga, insomma, che è stata il Paleolitico, cioè l'epoca nomade, l'epoca prima della stanzialità, diciamo, agricola, prima che ci fosse l'invenzione dell'agricoltura, per recuperare con le nuove tecnologie questo tipo di, come dire, nomadismo. Questo è quello che a me interessa particolarmente delle nuove tecnologie. Spero di non avere, come dire, anche in questo libro o in altre occasioni comunicato alcun discorso feticistico sulle nuove tecnologie. La vera ragione per la quale queste tecnologie mi interessano è che, secondo me, consentono, non in maniera automatica, ma aprono un terreno di scontro anche nel consumo, anche nelle cose, come dire, banali, quotidiane, per cui si possono recuperare modalità di rapporto fra le persone e di comunicazione che possono anche andare indietro, cioè che ci possono portare a noi. Ecco, questa è una delle tesi del libro, credo. Io proverei a descriverlo brevemente, questo libro. Allora, il corpo virtuale è il titolo ed è l'organizzazione, la riorganizzazione di una serie di saggi scritti da Caronia a partire, mi pare, dagli anni 90 all'incirca. Anche prima. Taluni anche prima. Sono tre le sezioni in cui ho organizzato il testo. La prima è dedicata ai robot e a una distinzione interessante che fa tra automa come unicum e robot invece come produzione replica industrializzata, insomma, dell'entità artificiale. In questa prima sezione i materiali considerati sono sostanzialmente produzione narrativa di tipo fantascientifico e fumetti. La seconda sezione, dopo il robot, è quella del corpo invaso, quella che titola Il corpo invaso, in cui si tratta delle, si affronta la tematica delle nuove tecnologie intrusive, come viene detto, cioè di tutte quelle tecnologie già in uso e in ampio sviluppo presso l'oggi che noi viviamo, che appunto si intrudono, entrano nel corpo classicamente inteso, per portare da un lato dei benefici di tipo per esempio medico, dall'altro un ampliamento insomma delle percezioni e una maggiore ricchezza, diciamo, di rapporto col mondo circostante. Ecco, qui ci sono, in questa seconda sezione ho trovato particolarmente interessanti e anche conturbanti, devo dirlo in maniera molto chiara, le pagine che Caronia dedica ad alcune tendenze dell'arte cyborg, in particolare Stellark e Orlan, che mi hanno veramente, poi se ne vorrai parlare, descrivere qualcosa di queste esperienze artistiche che stanno nascendo all'interno di un'idea cyborg, sarà interessante. La terza e ultima sezione è quella invece del corpo disseminato nelle reti e il corpo a contatto immerso nelle nuove tecnologie che vengono definite solitamente virtuali. Ecco, al legamento di ognuna di queste tre parti ci sono, posti da Caronia, ci sono degli intermezzi in cui mi pare pratichi una specie di saggismo fictional, insomma una specie di saggismo fantascientifico, non sulla fantascienza, ma saggismo esso stesso fantascientifico, cioè in cui Caronia con un tipico ribaltamento immagina dei soggetti che guardano a un passato epocale che è quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Ecco, il libro mi sembra organizzato in questo modo. Vediamo. Sì, è che sono un po' satirici queste cose intermedie, quindi non vanno prese come uno sviluppo effettivo del, diciamo, le tesi sono quelle esposte più nelle tre parti che tu hai detto prima, insomma, che sono state descritte molto, molto, molto correttamente. Ecco, sì, adesso, certo, come dire, i due insomma, fenomeni più che per me sono più interessanti, che ho cercato di insomma, studiare, di insomma, descrivere e anche di capire in questo libro sono, da un lato quello dell'invasione della appunto tecnologia nel corpo, che porta ad un, come dire, superamento della naturalità. Cioè già oggi noi non abbiamo un corpo naturale, anche chi per diciamo avventura non avesse alcuna protesi, alcun dente finto, eccetera. Il nostro, no, per dire che uno dice la cosa più banale, il tipo più banale di insomma cyborg è chi ha la insomma dentiera, no? Ma anche chi per avventura non diciamo l'avesse, in realtà oggi il nostro corpo vive, può vivere, può sostentarsi e può diciamo rimanere tale solamente in relazione a tutto un complesso di come dire, intrusioni di tipo biochimico che noi abbiamo attraverso l'alimentazione, le medicine, eccetera, eccetera. Il nostro corpo è già oggi artificiale, probabilmente non è mai stato un corpo naturale il corpo dell'uomo, cioè dal momento in cui l'uomo ha 500.000 anni fa, quantomeno, forse anche prima, cominciato a scheggiare le pietre e quindi a circondarsi di un ambiente tecnologico intorno a sé, non è già più naturale. Questo processo. Sì. Marx qualcosa diceva a proposito, sì, di ma questo. Come magari no, come marxisti no, come se no. Lo dimenticano. No, però, a proposito no, di cosa più scheggia sociale, sì, mi sembra. Certo. A proposito del però rapporto, poi c'è tra un salto qualitativo con le nuove tecnologie. Certo, adesso che c'è un salto non qualitativo. Facciamo... Certo, però voglio dire, io non nego che ci siano salti qualitativi, dico però c'è un pezzo in cui dico che dalla pietra scheggiata al computer c'è anche una continuità. Cioè, vi informo, scusate l'interruzione, che abbiamo Daniele Brolli in linea. Ci sei, Daniele? Salve. Ciao. Ecco, dunque, che abbiamo in linea anche Daniele Brolli. Ho visto che c'è molta pubblicità sul tuo libro Gioventù Cannibale, l'antologia con Ammanniti, Brancaccio, Caredda e altri. E di questo magari ti vorrei parlare più in là per la rubrica dei libri, però volevo subito chiederti, anche se poi torneremo evidentemente al libro di Caronia che è l'oggetto della nostra trasmissione, se la tua passione per la fantascienza ha un qualche collegamento col lavoro sulla letteratura pulp. C'è secondo te? Ma, definitivamente sì, no. Nel senso che sono comunque delle letterature di genere, comunque degli immaginari di genere di riferimento, e poi insomma ho dei dubbi che si possa definire pulp quella letteratura che viene così definita, però insomma non ti piace la parola pulp? No, non c'entra niente più che altro, però siccome ormai è entrata in uso. Sì, è entrata in uso, e l'ambito di riferimento della critica italiana è talmente ristretto che non sa neanche trovare parole per etichettare ciò che vuole marginare, quindi va bene pulp. Tu come la chiameresti? Ma io trovo che sia il racconto di un immaginario contemporaneo che finalmente trova un mezzo attraverso il quale diventare memoria per chiunque. Quindi non vorrei fare una definizione, non vorrei trovare un'etichetta per niente. Mi sembra sempre sminuire il fatto che c'è qualcuno che pensa, ci sono delle idee che viaggiano da uno all'altro, che esistono, e quindi mettere delle etichette è sempre un po' una diminuzione di valore comunicativo, secondo me. Benissimo, ti chiediamo di restare in linea mentre Antonio conclude il suo ragionamento. Di Antonio. Sì, no, era semplicemente, dicevo appunto, da un lato c'è questa figura del corpo appunto invaso dalle tecnologie, dall'altro l'altro grande processo che mi sembra interessante è quello per cui oggi il corpo si può replicare non nel modo classico in cui si replicava, come dire, con una materialità in dei corpi artificiali, appunto robot, androidi, eccetera, ma si replica virtualmente, cioè con una serie di simulacri, li possiamo chiamare, no? Che però hanno degli effetti sui nostri sensi, cioè noi possiamo sentire, vedere, fra un po' potremo anche toccare, forse potremo anche odorare, dei corpi che non sono direttamente materiali ma che sono virtuali perché stanno appunto, come dico, disseminati nelle reti. Ora questo mi sembra, io cerco di collegarlo con altri processi, cioè con quello del superamento del concetto di identità forti, con tutta una serie di dibattiti che ci sono stati, di tendenze che sono già state individuate, non soltanto da me, anche da molta altra gente prima di me. Questo credo che sia uno dei processi, come dire, fondamentali. Quello sul quale, secondo me, si aprono delle, come dire, battaglie culturali, di consumo, eccetera, e quindi in ultima istanza credo anche politiche. La tesi contro la quale io vorrei combattere, insomma, che mi sembra, è, diciamo, sono due. Prima quella, la tesi degli apocalittici, cioè che dicono che il corpo in quanto tale scompare con questo processo di disseminazione. Secondo me invece si potenzia, tendenzialmente. Anche se so che la gestione, come dire, politica delle reti, qui entra in gioco il discorso politico, cioè per esempio il monopolismo di Bill Gates, eccetera, eccetera, o la concezione delle autostrade, super autostrade informatiche, invece dei viottoli che sono molto più agibili e molto più controllabili dal singolo soggetto, come dire, vale, merita di essere, insomma, considerata, cioè, quindi da un lato questo. Dall'altro vorrei combattere invece la tesi, come dire, quella un po' alla, insomma, Negroponte, cioè che dice va tutto bene perché ci sono i bit, cioè quando gli atomi si trasformano in bit, eccetera, non basta dire che gli atomi si trasformano in bit, bisogna capire che cosa porta con sé questo processo, il quale porta con sé ovviamente aspetti positivi, negativi, eccetera, eccetera. Secondo me varrebbe la pena cercare di potenziare quelli positivi e deprimere quelli, diciamo, negativi, invece di fare dei grandi piagnistei sopra la scomparsa del corpo, la scomparsa, cioè robe che fa tanto per intenderci uno come Arthur Crocker, che è uno molto famoso in Canada, negli USA, eccetera, eccetera, però, come dire, si basa su questa tendenza apocalittica, dice il corpo scompare, eccetera, eccetera. Credo che anche le robe, per tirare in ballo anche Daniele, sono tutte cose, queste, diciamo, processi, che insomma si trovano anche in molta letteratura di genere, in cui, diciamo, l'immagine del corpo, per esempio nello splatterpunk, ma anche nel cyberpunk stesso, sono fortemente presenti, non sono affatto scomparse né nella fiction né nell'immaginario e neanche nei processi, diciamo, sociali, insomma. Sì, io volevo, anche per tentare di coinvolgere maggiormente i nostri ascoltatori, insomma, però questo testo, perché Caronia mi sembra stranamente morbido e rassicurante, e io lo apprezzo questo, lo apprezzo, perché quando ho provato a parlare in giro ad amici del problema, insomma, della cultura cyborg, menzionando questa espressione postumano, ho suscitato mediamente l'orripilazione di chi mi circondava. E io cercavo affannosamente di spiegare, però vabbè, a parte la parola ci sono dei problemi, no? Allora, vediamo se, per poi chiamare anche in causa Daniele Brolli, qual è grosso modo la tesi di fondo di questo libro di Caronia? Che se la condizione a cui ci affacciamo, cioè la virata epocale in cui stiamo entrando e che parzialmente stiamo già vivendo, è quella dall'evoluzione biologica della specie, in senso darwiniano, a una evoluzione culturale della specie. Ecco, che la cultura abbia modificato, sì. Questo è secolare, forse millenario, appunto, ma che la specie umana si modifichi su basi culturali e non più biologiche, filogenetiche, questa è la rottura epocale che il libro tenta di articolare, tenta di portare avanti. In questo senso, postumano, bello brutta sì, che sì, sia la parola, sì. È la fine di quella uomo che ci ha spiegato nelle sue evoluzioni plurimillenarie Darwin, per una evoluzione diversa che si affaccia totalmente o principalmente al nuovo universo tecnologico. Il Papa non fa in tempo ad accettare, no, inglobare Darwin, che voi subito Darwin, virate da un'altra parte, dategli un po' di tempo. Ma proprio per quello, anzi, siccome oggi Darwin è, come dire, talmente ormai entrato nei canoni che anche la Chiesa lo può accettare, insomma. Invece, naturalmente, io sono d'accordo con te, cioè se tu per postumano intendi... Io ho solo descritto quello che dici tu, ma lo hai, voglio dire, descritto bene, cioè se per postumano si intende questo, mi sta, come dire, benissimo. Siccome però il termine poi è stato caricato di un sacco di altre, devo dire anche sciocchezze, mi sembra, a volte, se posso essere franco, è un termine che preferisco non usare, e infatti credo nel libro non ne faccio uso quasi mai, se non mi ricordo male, se non in questi intermezzi satirici in cui, appunto, diciamo, satireggio, prendo un po' in giro, quindi faccio la contraltare alla cosa, ma per il resto, insomma, però va bene, questo è il processo, e questo mi sembra, su questo mi sembra che valga la pena di, come dire, discutere, insomma, riflettere. Ecco, però fino a qua io ho tentato di descrivere oggettivamente da persona interessata a tutti i vostri dibattiti, ecco, quelli che tu esponi e quelli che riporti di altri. Ora, anche per cominciare a assumere una veste più da antipatica, diciamo, io a Daniele Brolli porrei questa domanda, cioè io ho questa impressione che ci sia, ed è bello questo, io lo considero bello, una grande fiducia in queste trasformazioni che si stanno, certo, molto chiaroscurata, si può vedere cosa ci sarà di rischioso nel futuro che ci attende, ma insomma questo futuro è appetito, è desiderato, e questo è un atteggiamento che non trovo molto frequente negli intellettuali che ho frequentato, insomma, in questo periodo. Però c'è un rischio illusione, secondo me. Stellark, per esempio, parla di maggiori spazi di libertà. Daniele Brolli parla del sogno della ragione, sto virgolettando perché Brolli è inserito con un suo articolo in questo libro di Caronia, e parla di una nuova giovinezza del sogno che la realtà virtuale, le nuove tecnologie informatico-virtuali potrebbero aprirci. Ora, la domanda è questa: a qualsiasi svolta di modernità, mi riferisco ancora a questo termine che rischia di diventare obsoleto, a qualsiasi svolta di modernità c'è sempre stato qualche fascia più o meno estesa di intellettuali maggiormente reattivi e fiduciosi che hanno tentato di interpretare in maniera utopica queste svolte. Poi la realtà storica ci ha quasi sempre confermato che le cose si realizzano effettivamente, ma in termini sempre più involgariti e abbassati rispetto alle aspettative che gli intellettuali più, diciamo, futuristi, futuribili, si proponevano. Quindi chiedo a Brolli, si riconosce in questa immagine un po' utopistica di un futuro appetibile che libererà il sogno e ci riporterà a una condizione di grande vitalità immaginativa e percettiva, o c'è il rischio, come sempre fin qui è stato, perché l'avvento delle società di massa questo ha realizzato, la cultura per tutti, ma molto più degradata e involgarita di quello che gli intellettuali anche più democratici si aspettavano? Daniele Brolli, a te. Ma io penso che intanto ci sia una confusione sulla concezione di futuro. Penso che le cose siano più vissute al presente che al futuro, nel senso, si parla sempre di futuro in questo caso per descrivere l'attimo dopo. Insomma, il nostro futuro non è quello di 50 anni fa, di 80 anni fa, è un futuro imminente, non è un futuro che ha prospettive, non so, quelle proprio degli esordi della fantascienza, poniamo, in cui appunto si immaginava cosa sarà il mondo tra 30 anni, oppure le prospettive miracolose, meravigliose di un Verne. È un futuro imminente di cui vediamo sempre la soglia, no? In cui intravediamo la soglia e diciamo, ecco, lì dentro mi sembra di sbirciare qualcosa. E certo che in questo futuro dobbiamo vedere anche delle speranze, dobbiamo vedere anche dobbiamo avere anche dei sogni. Il concetto di modernità è molto distante, quasi non lo capisco a questo punto, e quasi mi sembra appartenere a un'epoca che neanche più la produzione industriale considera più, mi sembra proprio rimanere distante. Quindi il vero nostalgico sarebbe Pischedda? Beh, io credo proprio di sì. Ti ringrazio. Rispetto alla realizzazione, io credo che questi termini non ce li dobbiamo porre, nel senso, non mi chiedo se si realizzerà ciò che spero che si realizzi. Io intravedo quella soglia e dico, verso quella soglia per me stiamo andando, non so se è vero, magari improvvisamente un miraggio sparisce, però verso quella soglia stiamo andando e lì forse succederanno delle cose. Perché mi devo dire adesso cosa succederà dopo? Devo prepararmi a quella soglia, quindi è vero, devo prepararmi a tutte le insidie che quella soglia presenta, ma non con questo ragionamento precludermi la soglia, l'attraversamento di questa potenzialità che intravedo in un imminente futuro. Perché tanto, se non lo fai tu, ci sarà qualcuno che te la fa attraversare, insomma, e quindi tanto vale, io penso, no? Mi sembra che tu dica, essere preparati e farlo autonomamente. Certo, certo. Posso inzigare ancora un pochino? Cioè, due domandine brevi che rivolgo a entrambi. La prima, mi ha poco convinto l'asserzione in questo saggio, perlomeno mi ha poco convinto, non mi sembrava adeguatamente articolata, che comunque queste nuove tecnologie porteranno a un superamento della società di massa. Ora, nel testo mi sembrava poco motivato, poco fondato questa asserzione. È possibilissimo che una tecnologia enormemente più acuta e quindi più flessibile, più individualizzante, porti a delle modificazioni. Però il flusso centrale, io sono ancora convinto, sia quello della omologazione culturale, quindi della massificazione. Forse Caronia si riferiva a massificazione nel senso della concentrazione dei corpi che verranno ridislocati diversamente, però in termini di cultura di massa credo che il flusso portante sia ancora quello dell'omologazione, quindi della massificazione. Primo. Secondo, magari a Daniele, ecco, c'è il rischio, perché questo è un rischio che viene affrontato in parte nel testo e che a me preme particolarmente mettere in luce, c'è il rischio che questa nuova tecnologia, questa nuova era che si sta dischiudendo di fronte a noi porti a una forte gerarchizzazione, a un nuovo... a una nuova stratificazione sociale fondata appunto su alcuni ceti detentori di altissima e avanzata tecnologia e altri esclusi? Ecco, perché questo è un po' il discorso anche che la nuova destra più smagata sta facendo in Europa, eh? Cioè la tecnologia è predisposta geneticamente, naturalmente, alla gerarchizzazione. È solo un grande equivoco democratico quello per cui tutti quanti oggi viviamo di una società di consumi tendenzialmente paritaria. Allora, intanto mi interessa moltissimo quello che dirà Daniele, ma voglio dire solo una cosa, che non sono d'accordo con quest'ultima affermazione di Bruno. Secondo me in questo c'è una, come dire, generalizzazione indebita delle tecnologie industriali a quelle post-industriali. Ci sono state, certamente, io sono convinto che non, come dire, il processo rivoluzionario ipotizzato da Marx e purtroppo tentato di mettere in atto con metodi che si sono poi rivelati tragici dai suoi, diciamo, epigoni sia come dire socialdemocratici ma più che altro leninisti, fosse impossibile o fosse difficile da raggiungere proprio per motivi tecnologici. Le tecnologie industriali sono di per sé autoritarie, cioè hanno implicito in sé l'idea della gerarchia. Se devo far funzionare una centrale nucleare o anche una centrale idroelettrica, mi ci vuole l'ingegnere capo che dica agli altri cosa devono fare, perché sennò va tutto a pallino. Invece? Le tecnologie informatiche invece dentro di sé potenzialmente hanno una come dire potenziale democratico che è completamente diverso da quelle delle tecnologie industriali. Tanto è vero che per descriverle il come dire modello più utile è quello della rete rizomatica, cioè adesso insomma rizoma è una poesia, una parola, comunque diciamo della rete senza centro. Allora quello che a me interessa è che ed è per questo che dico che queste diciamo tecnologie portano in sé una promessa di demassificazione, perché non hanno in sé la regolamentarietà, la omogeneità che avevano le tecnologie. Antonio, per riferirmi a quello che diceva poco prima Revelli, certo, anche Cremassi, loro dicevano invece che non è vero che il processo sia così lineare, perché infatti, se le nuove tecnologie hanno creato, per esempio, il piccolo imprenditore del nord-est italiano, indipendente, autonomo, che lavora immediatamente sul mercato internazionale, certo, loro dicevano invece adesso c'è una tendenza alla perdita di autonomia di questi piccoli imprenditori informatici, perché usano molto tornano sotto il comando del grande capitale. Perfetto. Quindi non questo, è così, come dire, sicuro. Ma ti spiego che ti spiego anche perché questa cosa non è, questo processo non è inerente alle tecnologie. La contraddizione sta nel fatto che queste tecnologie, come dire, post-industriali, vengono ancora gestite dalle elite economiche e politiche dell'era industriale. Questa è la grande contraddizione. Quando Clinton dice facciamo, e Gore dicono facciamo le autostrade informatiche, vogliono sovrapporre alla, diciamo, rizomaticità, alla anarchia, al diciamo, libertarismo della rete, vogliono, diciamo, sovrapporgli un modello che è tipico dell'epoca precedente. Io in qui vedo la contraddizione, quindi non dico affatto che questo processo sia automatico. Dico però che mi sembra che valga la pena, di combattere perché si realizzi l'altra variante, cioè quella anarchica, individuale, libertaria, eccetera, piuttosto che quella massificante. Sentiamo Daniele Brolli. Ma io vorrei aggiungere proprio una questione che è d'esempio, no? La questione delle comunità informatiche. Se noi pensiamo alla rete, non pensiamo a un sistema di identità distribuite nello spazio così come noi lo conosciamo, cioè non esiste uno spazio che sono i confini geografici dei nostri paesi, dei paesi politicamente determinati. Ma esistono confini infranazionali, internazionali, che sono quelli delle comunità informatiche, per cui sono comunità di interesse, comunità di valori stabiliti tra identità che comunicano attraverso la rete informatica e che si riconoscono e che dialogano al di là delle barriere nazionali. Questo è un fenomeno di abbassamento dei livelli di territorializzazione, quei livelli di territorializzazione o di riterritorializzazione che hanno portato ad eventi disastrosi come quello della ex Jugoslavia, che mi sembra che facciano intravedere delle potenzialità differenti della rete rispetto all'idea che ci sia qualcuno che formalmente ed efficacemente può determinare il suo utilizzo e le sue, i suoi scopi. Ecco, questo mi sembra così che possa indicare. Quindi tu dici c'è già un esempio molto concreto che dà adito a questa speranza, a questo ottimismo, a no, questo lavorare per. Io credo che ci sia un esempio di questo tipo da, da tenere presente, che non sia, che vada, poi avete fatto questo esempio, no? Hai parlato, il Papa riconosce Darwin, secondo me la Chiesa nel suo effetto temporale è sempre, riesce sempre a definirsi nella, in una forte, in un, con una forte valenza reazionaria. Proprio quando non doveva riconoscere Darwin, riconosce Darwin. Perché sacrosanto. È come? Sacrosanto. Spiegati Daniele. Meglio, Daniele. Hai ragione. E proprio perché, secondo me, nel paradosso dogmatico di Dio che ci dice tu dopo morto non hai più la tua identità, rinuncia alla tua identità, sei uguale, adesso invece con Darwin io ritorno ad essere un'identità forte che si contrappone ad altre identità e che ha un fenomeno di territorializzazione un'altra volta. Sì. Quindi la Chiesa ci spinge ad avere questo fenomeno che è un fenomeno che implica comunque una contrapposizione tra esseri umani. Mentre noi dovremmo andare avanti sulla, su, diciamo, su altre strade, insomma, sono d'accordo con te, certo. Sì, io questa cosa di della Chiesa che riconosce Darwin non mi è chiara del tutto, francamente, cioè bisogna vedere in che termine lo riconosce, se riconosce che l'uomo viene dalla scimmia o meno, non lo so, non ho seguito la cosa. Però un'altra. Scusate, c'è qualche fischio? Un'altra cosa mi aveva molto interessato del libro di Caronia, e cioè la possibilità che viene solamente lasciata intravedere, citando e chiamando in causa Elémir Zola, di una possibile confluenza proprio su base tecnologica avanzata e diciamo oltre epocale dell'orientalismo e dell'occidentalismo. Ecco, che ci sia quindi lo spazio anche all'interno di questo mondo cyborg virtuale per un neospiritualismo che riesca a saldare la grande frattura Oriente-Occidente. Questa mi pareva la speranza di Zolla, sì. E tu nel libro la trattavi con molte pinzette. Sì, ma cosa, sì. Cosa ne pensate di questa possibilità di nuova convergenza su base così straordinariamente tecnologica e apparentemente occidentalistica di Oriente ed Occidente? Come diceva Hegel, sono le astuzie della ragione, cioè sono i paradossi che per cui, come dire, ciò, vabbè, questo è, io devo subito dichiarare, io prendo le più ampie distanze da tutte le tematiche New Age, da tutto il relativo, quindi anche da, insomma, Zolla, che ne è un autorevole e molto colto rappresentante, ma poi sempre di New Age si tratta e sempre quindi di tentativo di... Però mi interessa, perché mi sembra che sia una delle cose, oggi, adesso purtroppo in Italia circolano pochi studi, ma insomma, per esempio ci sono gli studi di Mark Derry e di Andrew Ross, che negli Stati Uniti hanno diciamo chiarito, hanno sviscerato molto bene questa galassia New Age nelle sue, come dire, componenti insieme tecnologiche di legittimazione scientifica, eccetera, eccetera, e paradossalmente, è vero, è un paradosso, le tecnologie realizzano così delle cose. Devo dire, sono appunto paradossi che, come diceva prima Bruna, nella, come dire, fantascienza si ritrovano già da tempo, non so, i romanzi di Farmer, le cose in cui è la tecnologia che realizza l'immortalità, ma anche questo mi sembra una cosa, come dire, che è già successa nella storia dell'uomo. Le tecnologie, specialmente quelle di replica del corpo e di invasione del corpo, in fondo non hanno fatto altro che tentare di realizzare il sogno dell'immortalità, insomma. Sì, mi interessava di più orientalismo occidentalismo, perché su questo si è sempre creato un discrimine tra destra e sinistra, cioè è sempre stata la destra che ha guardato alla, certo, frattura, certo, Oriente-Occidente come frattura originaria e colpevole, no? Il fatto che su, in chiave tecnologica avanzata, si potesse ricreare mi interessava, insomma, un'unità originaria globale delle culture. Però un'ultima domanda volevo fare, cioè si parla sempre di Milano come terreno desertificato dal punto di vista culturale. Ecco, io dal tuo libro ho trovato anche questa speranza che in realtà invece a Milano ci siano dei centri in cui si elabora una cultura che è ancora, ma però questo lo metto in chiave di domanda, una cultura che ancora vuole essere all'avanguardia della nazione. penso alla galleria Moody, ma al gruppo Agave. Certo. Ecco, ma la domanda è, in questo senso, nel cyborg e nel virtuale, è vero che Milano ha ancora un suo primato italiano? Pure in nuce? È una domanda che ti pongo. Penso di no, probabilmente Daniele non sarebbe d'accordo. Appunto. e io sarei più d'accordo con lui, perché Milano mi sembra piuttosto arretrata. Su queste cose. Rispetto a quali altre città? Ecco. Bologna? Dico per esempio Bologna, adesso non so se Daniele è insomma d'accordo, Bologna, Firenze, cioè come dire, l'Italia poi sappiamo che non ha un centro culturale unico eccetera, per cui è il paese dei mille comuni ed è giusto che sia, diciamo così. Direi che il tentativo di Agave, che appunto da 2-3 anni sta tentando di lavorare su questa cosa, e a poi dicembre abbiamo in preparazione una cosa che spero piuttosto grossa e interessante, però tutto sommato lavora diciamo arretrata, al traino. Stiamo tentando di portare qua esperienze che spesso sono anche più in provincia, non so, faccio un esempio, per esempio non so, il Link di Bologna o la Fura di Lonato in provincia di Brescia sono posti che a, come dire, Milano non hanno l'equivalente. Ma questo insomma, non è dovuto proprio alle nuove tecnologie? Ma certo, probabilmente sì, perché noi possiamo anche fare a meno di stare tutti insieme localizzati nello stesso posto. Voglio dire, Agave è formata da gente che sta a Milano, Treviso, Torino, in vari posti insomma. Quindi... Daniele Brolli, ultimo intervento, stiamo per chiudere, anche tu sei d'accordo che magari la metropoli, le grandi metropoli abbiano perso in buona parte la loro funzione? Ma io credo di sì, credo che abbiano perso quella che si chiama centralità, fortunatamente l'hanno persa rispetto, vedo anche fermenti editoriali che nascono nelle piccole città, nei paesi, proprio perché non c'è più questa... Per esempio? Non so, io vedo ad esempio molto più viva Napoli, che non è ovviamente non è una piccola città, però non è una metropoli che è stata mai considerata centrale da un punto di vista culturale in Italia negli ultimi anni, però la vedo molto più viva di Bologna, di Milano e di Firenze, insomma, per riallacciarmi ad Antonio, oppure vedo delle città di provincia che producono appunto, che ne so, vedo teatro, riviste, editoria, vedo che si produce anche in provincia. Facciamo un esempio, Daniele, pensiamo alle, per esempio, edizioni AAA che nascono da una collaborazione tra provincia di Udine e Viareggio, insomma, esatto, no? È una casa editrice virtuale. È solo possibile tramite la rete, insomma, di Viareggio, di Vittore Baroni e Udine, sì, da questo punto di vista io credo che ci sia una specie di allargamento che quell'effetto rizomatico appunto di cui si parlava, o di comunità virtuali di cui si è già parlato, insomma. L'ultima domanda nell'ultimo minuto. Sì, no, io non era una domanda, voglio dire che accetto l'accusa di essere un po' retrogrado, me la tengo, proverò a studiare. Però sei un retrogrado che, appunto, che si interessa, che è aperto, che studia. No, però c'è molto da studiare. Comunque secondo me... è interessante l'esito di questa trasmissione perché Pischeda aveva chiamato in causa Antonio Caronia e immagino anche Daniele Brolli. Nella sua polemica contro i millenaristi, i nostalgici, gli apocalittici. Ed è finito per fare la parte di questo. No, però non è apocalittico né nostalgico, un po' ignorante in materia. Voglio solo dire che mi ha colpito in caronia vedere che in sostanza la disputa apocalittici e integrati si riproduce in termini diversi all'interno della stessa cultura cyborg. E quindi questo è interessante perché sarebbe già un discrimine da approfondire. Ecco, agli ascoltatori vorrei dire che se leggete i loro libri sono molto più terrificanti. Cioè, adesso qui fanno i bravi ragazzi, però leggere i loro libri e la loro produzione è un qualche cosa che da un lato dice ma io devo informarmi sul futuro che sto già vivendo e che mi aspetta, dall'altra parte questi hanno un effetto che oserei dire deterrente proprio. Ecco, però con tutto questo secondo me la cultura cyborg va veramente approfondita e studiata. Mi dispiace che Milano, allora a questo punto pensavo di poter spezzare un piccolo stuzzicadente a favore di Milano, desertificato in tanti altri settori. Invece niente. Ecco, invece neanche no, speriamo quello. Di far qualcosa, ma insomma... Ringraziamo tutti quanti Antonio Caroni, autore del libro Il corpo virtuale, da cui abbiamo preso le mosse, che comprende anche il saggio di Daniele Brolli che avevamo al telefono. Daniele Brolli ha curato l'antologia Gioventù Cannibale, di cui molto si sta parlando in questi giorni, in queste settimane. La potete leggere, è nelle librerie, pubblicata da Einaudi. Bruno Pischedda, ringrazio anche lui. Grazie. È la colonna di Libri e Libroidi. E ricordo anche il suo libro, che ha avuto un successo strepitoso, Come grande la città. Come bella la città. Come bella, ecco, no, io stavo bella, non è un diceva Gaber.